Wall Street, I viaggi del lupo. E iniziamo finalmente la quarta puntata di Wolf Trips. Oggi che giorno è? È il 26 ottobre. Anche oggi siamo la metà di 1000, Tony. Vero? 500. È giusto, vabbè, la metà di 1000, mi sembra giusto che siamo 500. Allora, siamo io, Domenico Biancardi, poi abbiamo Tony qua alla mia sinistra. Che oggi sei nella postazione regia. Sì, ogni tanto ritorno alle regie. Non è che devi fare tanto il privilegiato. Giusto, giusto. Oggi è qua alla cattedra col professore. E poi dall'altra parte invece abbiamo la Cri e la Debora. Finalmente la vediamo al microfono anche lei. Ci è arrivata. No, non ci arriva ancora bene. Poi invece abbiamo anche un po' di pubblico barra, diciamo che pubblico che lavora in realtà, non è che dice è pubblico qua a far niente. Perché abbiamo Katia che mi sta facendo 1000 video su Instagram, perché sai che anche settimana scorsa abbiamo seguito le peripezie di Instagram, e anche Sara che qua che dice ma lei è più per, diciamo, questi cosi qua automatici di Instagram, i bot. Si chiamano bot, ecco. Bot. No vabbè, stavo scherzando, dai, sto scherzando. Tra l'altro avremo ospite una puntata il loro blog. Solo una puntata, mi raccomando. Così la prepariamo bene e facciamo un bel lavoretto. Poi abbiamo Fabio che in realtà è assorbito completamente dal cellulare, sta diventando un tutt'uno. E oggi ha anche preparato un po' di effetti, jingle e robe varie per Wolf Trips. Direi che possiamo iniziare. Certo. O no? Vi vedo no, dubbiosi. Siamo spenti. No, ma ci riaccendiamo. Tra l'altro, oggi playlist sempre un po' particolare e cambiato anche un po' le etichette. Questo per oggi. Abbiamo girato un po'. Cambiamo anche un po' gli ambiti. Il tuo taccuino ha cambiato. È ritornato il taccuino. Perché per chi lo volesse vedere qua, il taccuino. Ma non va ancora. Come non va? Non va? Come no? Sì, dovrebbe andare. Alle 20:22 dovrebbe andare. Azzarola, come mai? Va bene, adesso controlliamo. Comunque, partiamo con l'etichetta. Ah, la diretta. Adesso okay, vabbè. Okay. Controlliamo. Partiamo subito con l'etichetta Green Notes, che è un'etichetta indipendente di cui non ho notizie. Partiamo con... È indipendente. Cioè... È talmente tanto indipendente che non ho notizie, però partiamo con un bel pezzo jazz proprio. Ah. Poi oggi partiamo proprio così. E il brano si chiama Festival de los Sapos. Io ti chiederei come Google Translate dopo di fare una piccola ricerca. Magari deve essere festa dei saponi. Dei saponi. Ah, ma può anche essere. Ed è di Sonny Monk. Andiamo a ascoltarlo, okay. Poi vediamo, valutiamo un po' che roba è. Thank you. niente, abbiamo perso Tony perché è completamente rapito da Facebook. Cosa che stai facendo? No, sto aggiornando la mia pagina Facebook dicendo che siamo in diretta. Ho capito. Magari adesso hanno ascoltato questa canzone che io sinceramente... Vabbè, è De Gustibus, nel senso, abbiamo fatto una prova, non è detto che vada a buon fine, cioè, dobbiamo sperimentare, no? Quest'anno sì, abbiamo detto che facciamo un po' di esperimenti. Un po' così, è stato un bucato nell'acqua, dai, vabbè. Posso dire una delle mie? Vai. È un po' trombeggiante. Sì, sì, tra l'altro voleva dire il Festival dei Rospi. Sì, beh, per, ricorda i Rospi, è vero. Un po' sai quella crac crac crac. Forse era quello il senso. Che succede, Debora? Vi vedo perplessi. No, stavo pensando a quello che aveva detto. È il Festival dei Rospi? Sì. Vabbè, ho detto direi trombeggiante, che... non è che ho detto sì. Un'altra cosa, De. Iniziamo bene, no, ragazzi. No, pensavo ai Rospi. Dopo no, 5 no, minuti no. Scarsi sì, di diretta. Infatti. Vabbè, io comunque direi... Non a quello che hai detto tu, a quello che ha detto lui. Festival dei Rospi. E l'ha collegato a te. Cioè, che sei un rospo te. Meno male che ancora la diretta Facebook non va. Comunque, volevo così almeno per i prossimi minuti i nostri ascoltatori, cioè anzi, quelli video che ci guardano. Video ascoltatori. Non si spaventano. Però, contatti, dai. E infatti, vai, volevo dire di lanciare i contatti, di Wolf Trips, di come ci possono ascoltare, vedere. Allora, ci possono solo vedere da Facebook, per adesso, in diretta Facebook, sulla pagina di... Radio Lupo Solitario o anche di Wolf Trips, anche lì anche lo abbiamo ricondiviso anche da lì. E okay. Invece ci possono ascoltare scaricando l'applicazione da Google smartphone Play. Da Google Play Radio Lupo Solitario e i diretta... contatti, se vogliono interagire con noi possono interagire tramite WhatsApp al numero 338-222-8983. Sì, farei un appello di evitare di mandarci sempre pubblicità su WhatsApp perché sto lavorando quello della radio. No, a me mi fa piacere che c'è il primo evento esclusivo al Teatro di Saronno e tante altre bellissime cose che non so adesso ad elencare, però se ci chiedete magari qualche informazione magari più pertinente alla radio ci farebbe anche più piacere. Sì, va bene. Sì. Va bene, io direi che continuiamo il nostro viaggio sperando adesso di tornare sulle nostre rotte classiche, mettiamola così, sai che siamo tipo una nave, no? Oggi siamo, sì, oggi diciamo che qui siamo andati un po' fuori onda. Un po' fuori onda, adesso vediamo se riusciamo a rientrare un po', ho un bel po' di chicche da farvi ascoltare. Andiamo con l'etichetta Monophonicos che abbiamo ascoltato millanta volte. E il brano... Salutiamo, magari ci stanno ascoltando. Sì, hanno condiviso e messo varie volte mi piace ai nostri extra dei vari podcast che facciamo. E il brano è di Rodeor con Ultravioletta, un brano del 2017. Andiamo a ascoltarlo. Ancora in sottofondo il brano di Reorder Ultravioletta del 2017. Vabbè, dai, questo andava forse era più sulle nostre corde, dai. Ma che si iniziava con questa? Dovevamo iniziare con questa, vabbè, dai, stasera è andata così. Il brano, dicevo, che era della Monophonicos, che è un'etichetta che viene dalla Colombia. Intanto dietro ci sono dei, diciamo, degli anticipi di Halloween. Lo sapevo che lo dicevi. Però dai, ci ha dato anche, sentiremo anche qualche sua produzione, mi sa, dopo. Sì, bene. Non diciamo di brani, però diciamo a contorno, produzione a contorno. Qualcosa di sì, rumori molesti. Com'è andata di là la settimana, che vi vedo che state dormendo allegramente? Anzi, una è presa a scrivere su internet, non so cosa stia facendo. Vuoi saperlo? Sì. Sai che mancano 66 giorni alla fine dell'anno? Beh, buono, 66 giorni, sì, dai, contando che una settimana dura 7 giorni, non è che ne mancano tante di settimane. Sì, dai. Siamo alla settimana 44, quindi. Ma è già la puntata del 2 novembre questa. La puntata Depression. Depression, no, beh. Va bene, va bene. Stavo cercando un po' informazioni sul 26 ottobre, veramente un sacco di roba. Cosa è successo? Tutt'oggi. Cosa abbiamo in programma oggi? Cioè, cosa è successo nel mondo il 26? È successo nel 740, figurati, sì? Un terremoto colpisce Costantinopoli. Ah, ma proprio, cioè, siamo inizia passati alla... Inizia la guerra civile bizantina. Vabbè, ma qua è roba proprio storica, sì, dai. Sì, beh. Io direi che allora, per levarci dall'impasse della storia, passiamo a un brano del 2018. Intanto volevo iniziare a annunciare che avremo due live set di un'etichetta, e li avremo anche in intervista tra poco. Bene, bene, bene, così iniziamo. Vai. Cos'è successo? Sì, già più recente. La Babyfy viene trapiantato il cuore di un babbuino. Ah, sì, io me lo ricordo. Non me la ricordo sta me cosa. Me lo ricordo questa cosa. Comunque, a proposito, diciamo, di trapianti, innesti e cose particolari. Sì, perché però... stavo dicendo, nel 2018 è uscito un brano di una sotto etichetta Block Sonic, di un'artista russa. In realtà noi Block Sonic abbiamo ascoltato sempre per brani hip hop. In realtà questo è un brano, definisce trip hop, ma secondo me è più soul. Lei è una bravissima cantante, si chiama Natasha Beller, e il brano si chiama Senseless Song. Canzone senza senso. Here, and I don't know what to say. Maybe 'cause Ancora in sottofondo la voce di Natasha Beller. Stai andando sempre più in hai su. Hai visto. Io mi guarderei alle spalle fossi in te. Ma aspettiamo. Anzi no, non guarderei alle spalle. Ma abbiamo ascoltato una bella canzone e dai, non roviniamocela così. Sì. Cioè no, non per Fabio, però dico per questi diciamo teatrini, i nostri soliti teatrini. Sì, dai. Se la canzone potesse vedermi scapperebbe lei direttamente dal computer. Scappasse. Vabbè. No, è sbagliato scappasse. No, scapperebbe. Era per dirlo. L'avevo detto apposta. Comunque manca un altro Fabio stasera, eh? Attenzione. Sì, arriverà? Non lo so, non... Dipende dalla, dai questi, diciamo che prova a chiamarlo. Non questi scioperi? Dipende dagli scioperi dei treni? No, lo so, può essere, sì, può essere perché lui viene da Milano, sì, potrebbe essere. Oggi c'è stato questo mega sciopero al che io ho deciso di usare la macchina e... sono riuscito ad arrivare in tempo conoscendo I know my chicken, quindi conosco i miei polli e quindi no, tra l'altro per una ho appena avuto notizie dall'esterno e praticamente sono tutti bloccati quelli che stanno tornando dal lavoro e sì, sono tutti lì che stanno aspettando appunto i vari mezzi che siano perché? Perché treni. Ci ascolta dai podcast, perché tu dici bloccati, cioè, c'è gente che ci ascolta anche tipo da New York, diciamo che per andare verso Milano, per tornare da Milano non si muove niente, mettiamola esatto. Così ma è un po' in tutta Italia così stasera, cioè oggi. Sì, oggi sì, oggi ho c'è letto stato che questo sciopero generale. C'era questa persona che conosco così di vista che era sul Frecciarossa, voleva una cosa da bere e siccome c'era lo sciopero sul bar, sì, gli potevano dare solo l'acqua. Cioè. Se c'è stato sciopero, c'è stato sciopero. Se no sì, che disservizio crei? È giusto anche così. Il disservizio serve proprio per creare disagio, non per creare altro. Bene, qua abbiamo l'angolo colto di Fabio. L'angolo culturale. Io direi che continuiamo con un po' di musica sempre della Block Sonic. Stavolta torniamo sulla genere rap, però andiamo un po' indietro nel tempo. 2011, il brano è di Pot C con I Got Raps. Ed è un brano che definiscono hip hop, old school. Andiamo ad ascoltarlo, andiamo ad ascoltarlo, poi vediamo un po'. Softly. Don't hit yourself. Don't hit yourself. Get yourself. You just say yourself again. Shit burger. Here's a fresh Fabrizi posse beyond the CD cracking third person versus hearses in reverse. It's my damn with your red shredding your head. Get in your bed. I'm betting you get dead in the lead or graphite. The sun type for one tight tongue twist of list. The pop resist. I got shit listed, mister. Change you got change. Download this in your veins. Blow brains and streak your hands. Change veins and chase the pain. Again, I done did it. Chronicle of the city. Spit it, season, tumbleweeds, crumble feet. Cause who needs these breeds? My dirty deeds done dirt. Pro bono. Sluggo to Mr. Bill gets killed without a oh no. Yo, now you know what that's half the battle. This promo's just slow-mo. Now hold tight to saddles. Blazing amazing trading clips of slip wind pipes. Hazing the great and baiting clips with vice grip mine. I got the space crap. Get in your face crap. Put shit on a stick and start a chase rap. The no chase rap. The outer place rap. YouTube as a planet, my space rap. Let's crack a case rap. Hey, fuck face rap. Got you tripping on your own shoelace rap. Make haste rap. Fecal waste rap. The PJ, the bloody, and the ace rap. I got the candy separated, tortoise backside bound. The Zilla tells destruction and you fucked up now. Get a sucked up, pal. Dry your tears and try harder. This is Tiny Town, bitch. We ain't rich, we barter. Charter some sense, this immense gap in phonics is equivalent to man, your K-bomb by on. Doggone, I guess you're just general admission. My shit's cunt, fuck shit with duffel legs pissing. The cup catapulted at the bulls are on your noggin. Fucking rights, I'm about to rhyme that shit with Kenny Loggins. Hogging this mic like the boss, Boulevard. Couldn't make the wedding, you don't know where I'm treading. With references so obscure, they're in noses. Toucan Sam with the can with coke foes. It's my private party, and I'm ready to crush it. Fuck proof, fucker, ain't nothing to fuck with. I got mad skills, I got sad skills. Even clinically proven, not the hand skills. Fucking rad skills, you never had skills. Schwartz nigga on a Hollywood, but bad skills. You can't add skills, you didn't grad skills. Life for less, I get the gas skills. You can't grab skills, I fucking stab skills. Even therapy can't just rehab skills. So what's the drunkard Scott Baio? The Blaze Ben Stiller, cold brew chiller. Digging with a rototiller, no filler or funk. Word of chunk, gut spilling. Willing, able, and doing. Putting whack in the ruin till you're blue in the face. You can yap about expenses, still without defenses. When it comes to building senses, fences get to shade when they're slayed by the Zilla thriller. Stagger in your step from the aftermath. Idle threats like Mitch Lum talking after class. Token gesture of existence, they maps of no distance. Contradiction in abundance, like topaz and sun. It's obsolete, fecal matters, they flush with desire. Dai, questa com'era a livello di old school rap, bla bla bli bli bla bla. Sì, no, veramente, cioè, non so più cosa dirti. Questa sera mi sei partito da zero, mi stai passando i 100. Ma in realtà devo dirti la verità, io in realtà ripongo sempre un po' di fiducia nella musica jazz, ma mi è dispiaciuto che non ha attecchito il colpo. Ma sai che ci riproverò. Io conosco le tue, cioè penso che fosse un po' più swing, ecco. Cioè, no, poi, anche. Però sembrava proprio uno stagno, cioè ma anche con l'odore dello stagno. Va bene, oh, che vabbè. Battutaccia. No, vabbè, ma ci sta, è giusto, diciamo. Cioè proprio quel jazz purista, credo. Purista, no? Bravissimo. Tu ti aspettavi più una sorta di Aristogatti, mettiamo così. Sì, una roba più da cocktail. No, Aristogatti proprio. Aristogatti. Va bene, va bene. Direi che siamo quasi pronti per fare un attimo di pausa. Sì. E poi avremo, inizio a dire già qualcosa, così almeno inizio a fare un po' di intro. Avremo due ospiti di un'etichetta collettivo che si chiama DNA Collective, però non vi svelo altro. Va bene. Direi che ci sentiamo dopo. Ah, visto che ci siamo, aspetta, visto che ci siamo. Ci siamo, ci saremo sempre. Facciamo lanciare, no vabbè, non lanciamo niente, diciamo che c'è un nuovo, no, non lanciamo nulla. C'è un nuovo jingle, ecco, pronto per la radio, prodotto dal nostro Fabio. Andiamo, esatto, ad ascoltarcelo. Torna il venerdì Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi per due ore di musica underground. A tavola! Wolf Trips, alla ricerca delle hits del futuro. We'll be right back. Va bene, torniamo dopo la pausa pubblicitaria con questo brano di Push Again New Fakes, che è un ragazzo, adesso non mi ricordo di dov'è che, però lo ascolteremo presto anche lui dal, diciamo dal vivo, dal italiano. È italiano, ma non mi ricordo se era di Modena, aspetta, che ce l'ho scritto nella mia super agendina. È un progetto italiano, lui si chiama Michele Panf Mantovani, per chi, ecco, però io vedo che lei è, no, non mi segue, no, perché ecco. Lei sa perché, anche perché rido. Sì, perché sì. Più di una volta mi fa: ma chi è sto Michele Panf Mantovani? Facciamo amore, è un ragazzo Michelino. Che... Sì, perché continua a uscire nella roba, diciamo, di Facebook. Dice: ma chi è sto Michele Panf Mantovani? Faccio: no, è un ragazzo che dopo intervisteremo. E, sì, comunque è un progetto italiano, assolutamente. Fa un po' di musica elettronica particolare. Intanto dovremmo avere in linea Ego Drone Music della DNA Collective. Ci senti? Non ti sento. Aspetta, mi senti? Ok, ok, adesso ci sei, ci sei. Ciao. Come va? Tutto bene? Buona serata. Ciao. Ascolta, abbiamo un paio di domande e poi dopo faremo parlare un po' la musica che ci hai inviato, il tuo live set. Prima di tutto, okay. stavo cercando un po' di informazioni. Io so già la risposta, però lo faccio per gli altri. Ma voi fate parte del DNA Collective, giusto? Sì, esatto. Che però, mi dicevi, ha avuto un po' di evoluzioni particolari, questa etichetta / collettivo. Eh sì, è diventato una cosa, cioè è cambiato un po', perché una volta avevamo tanta gente che aveva voglia di starci dietro, tanti artisti che avevano collaborato con noi, ci hanno scritto di qua, ci hanno scritto di là. Poi tra una cosa e l'altra, quell'artista ha smesso di suonare, quello si è fuso con quell'altro, quello è scomparso, quello l'hanno arrestato e quindi siamo in due alla fine, no? Sono cose che succedono. Sì. Quando no, vedi. Genere di musica, sono cose che succedono. Vedi, ecco. Noi che stiamo facendo questo viaggio nelle net label, è bello anche sapere questa cosa, nel senso che può essere benissimo che un'etichetta nasce e poi prende strade diverse. Spacciamo musica. Sono cose che capitano, sai. E poi stavo anche gli Immortal, no? Un paio sono spariti, voglio dire, perché sì, non dobbiamo sparire anche noi, insomma. Eh beh, certo, giustamente. E poi ci domandavamo invece della provenienza, giusto, Cri? perché io leggo città di origine Antartica. Ci sarà un motivo, immagino, era la no? La prima che c'era nell'ordine alfabetico, no? Sono un po' no? Anche perché Antartica è un po' lontano. No, invece tu di dove sei? No, io ora lavoro a Milano, vivo a Milano, però tutto il progetto è nato a Genova, di dove sono io. La stragrande maggioranza dei miei strumenti sono di là, si sente anche dalla voce che sembro Beppe Grillo, vabbè. Anche tu sei rimasto bloccato oggi a Milano? No, io in realtà avevo deciso di non muovermi, lavoro a 20 metri da casa. Ah, bene. Hai fatto bene, oggi hai fatto proprio bene, guarda. Sarebbe stata una scelta brutta. Va bene, dai, presentaci un po' il live set che andiamo adesso ad ascoltarci, questi 12 minuti, 10-12 minuti. Sì, guarda, ho fatto un live, diciamo più che un live, è un po' come mi piace suonarlo dal vivo, quindi ho fatto una selezione di pezzi miei con una breve intro di cose, di prova, sì? Che è un po'... probabilmente un po' autoreferenziale, perché uno dice: ma hai pescato brani campionamenti da qua, da là, da chissà dove. Però è come mi piace suonare, perché mi piace quando anche sono dal vivo che l'ascoltatore, che poi spesso è anche spettatore, perché molte volte metto anche video eccetera, guardi e dica: ma che cazzo sta succedendo? Hai 10 secondi dove capisci qualcosa, dici: ah, ma questo brano è no, aspetta, è tutta un'altra, cioè... E lasciare quell'effetto lì. Bello, ci piace. Diciamo che, tra virgolette, il mio modello musicale, in un certo senso, è la televisione, dove tu lo guardi anche magari distrattamente, cambi da un canale all'altro e vedi tutto insieme, contemporaneamente, quindi trovi tutto. Ed è bello perché c'è tutto, ma anche non sai neanche cosa stai seguendo. Alla fine ti lascia quella sensazione lì un po' di avere visto qualcosa, di avere capito anche qualcosa ti rimane, qualcosa no, ed è più o meno come mi piace produrre la musica, come mi piace suonarla. Una bella idea, davvero. Del lavoro, è un po' l'idea che avevo anch'io effettivamente anni fa. Dei flashback, praticamente. Cioè, va riferimenti anche dal passato. Sì, anche. Perché poi mi piace anche a volte pescare qualche cosa dal vivo, metto magari anche espressione di programmi TV, espressione di pubblicità, che uno lo guarda quei 10 secondi ricordandosi di averlo visto chissà quando, e poi improvvisamente passa tutta un'altra cosa. Quante TV hai in casa? Quante TV hai in casa? Ora ne ho una sola, una volta ne avevo almeno 3, quindi... Ok, ok. Lasciaci un po' i tuoi contatti Facebook o comunque dove possiamo trovare informazioni magari sulle tue serate. Anche o su ascoltare... di te. O ascoltare qualcosa, giustamente. Qualcosa. Sì, allora, mi trovate su SoundCloud con soundcloud.com/godrone, che è quello proprio di principale riferimento. Ho anche una pagina Facebook, ma non mi ricordo l'indirizzo. Beh, però dopo la pubblicheremo sulla nostra pagina di Wolf Trips, quindi ecco, per chi è interessato... Così mi trovate anche dov'è, perché non me la ricordo. Hai un label con cui lavori adesso? È Godrone Music. No, ma io ho visto anche il tuo nome sotto il nome della Laverna, che è un'altra, sì, esatto. È un'altra net label bella grossa, no? Sì, diciamo ci abbiamo provato, poi adesso vediamo come si va. Ah, ok, ok, ok. No, no, ho visto nelle ricerche di Google, ecco, scusa. Sto provando anche un po' a farmi vedere, ecco, tra qualche altra etichetta, qualche nome, qualche faccia ce l'ho, però stiamo lavorandoci. Ecco. Va bene, Ma hai altri... L'ultima cosa, poi dopo lasciamo spazio alla musica, ma hai altri eventi in programma, per caso, a breve? Qualche evento? Guarda, qualche... ne dovevo avere uno qualche tempo fa in Veneto, però... purtroppo è sfumato e ci è andata male, a dire la verità. Va bene, va bene. Va bene, magari ci sentiamo anche più avanti per quando hai qualche novità o musicale o... Hai un altro mix? Anche un altro mix, perché sì, no? Sì, perché sì, no? Sì. Magari anche, naturalmente. Tanto le mie produzioni hanno sempre tempi biblici, la prossima sarà intorno al 2022-2023. Va bene. Siamo ancora qui in radio, cioè, ti passeremo volentieri. Posso chiederti un'informazione? Anche due. Volevo chiedere una curiosità. Quindi tu sei solo tu che fai fai musica in questa parte in questa etichetta? Questo mixato, diciamo. No. Sì, sì. Nel progetto sì, il progetto del Godrone, anche se la formazione è composta da una quarantina di persone, in realtà sono solo io. Ah, ok. E invece nell'etichetta ci siamo rimasti io e il mio socio principale, che poi in realtà è anche il fondatore dell'etichetta, che è veramente un fenomeno, non è come me che sono uno scappato di casa dalla musica. È uno che suona da 100.000 anni, una volta mi scrive e mi fa: guarda, la tua roba mi piace tantissimo, ti va di collaborare? Dico: caspita, se lo dice lui allora deve essere vero. E quindi poi da allora siamo rimasti in giro, alla fine siamo solo io e lui nell'etichetta, ecco. Quindi siete voi due che componete musica, che... essenzialmente sì. Ok. Va bene, io direi che ci salutiamo e ci sentiamo sicuramente presto, appena hai qualche altra novità. Andiamo ad ascoltare quindi il tuo live set. Ciao! Ciao a tutti allora! Ciao! Telecomunicazioni del futuro. necessary for capturing the humanity center with Titan. Today I'm going to talk to you about cellulitis. Cellulitis is an infection of the skin. This usually starts with a scrape, cut, insect bite, blister, or any other opening of the skin which becomes infected. This is a serious condition. It must be watched very closely to be sure the infection does not spread. With antibiotic treatment, the size of the red areas will gradually shrink to the size of the skin in the germ form. This will take 7 to 10 days. The red area should never increase the size once antibiotic medicine has been started. Often, in the emergency department, we'll wash the skin so that if the red is then past the market, we know to come back to the emergency department immediately for evaluation. Occasionally, an infection might persist with one antibiotic and another may not be used. Not all cellulitis need to be treated in the hospital. Some antibiotics may be prescribed for and only people who are unable to tolerate the antibiotics or fail outpatient treatment may be intermittent. State ascoltando la musica di Eco Drone Music. Thank you. Ascoltando il live set di Ego Drone Music. Bello. Sì, non è male, non è male, molto particolare, sì. Molto sul, diciamo che parte dalla musica un po' tranquilla, poi con quei riferimenti televisivi, poi andava un po' più sul densereccio, mettiamola così. E adesso dovremmo avere in diretta invece le True Electronic, non so se ci stai già sentendo, Andrea? Sì, ciao. Ok, eccoti qua, eccoti qua. Ciao. Ciao. E tu vai sempre qua, tu mi diceva Ego che sei il fondatore un po' del DNA Collective, anche se poi dopo, vabbè, ci sono stati questi disguidi, come possiamo chiamarli, variazioni di percorso, dai, mettiamola così, giusto? Sì, sì, esatto. Diciamo che è un progetto che ho cominciato parecchi anni fa, quando ero più giovane, insomma, non che sia, adesso sia vecchio, però insomma, cominciato in adolescenza e poi chiaramente si è sviluppato per qualche anno e poi chiaramente ha preso altre vie, altre forme, altri nomi. Però devo dire, su Bandcamp io ho trovato ancora molta musica interessante, cioè non è male anche il catalogo che avete comunque ancora online, non è molto interessante, sì, no, infatti, effettivamente non è aggiornato, quello sì, l'unica cosa che effettivamente un po'... non ci sono tanti aggiornamenti, quello sì. No, esatto, ci siamo concentrati su altre cose, ecco, diciamo, però all'epoca avevamo fatto una bella ricerca appunto di artisti, soprattutto appunto online, che non avevano particolare spazio e quindi avevamo deciso di darglielo, insomma. Ok. Volevo capire invece il tuo progetto, questo del, diciamo, solitario del True Electronic, che in realtà tanto solitario non è, mi pare di capire, no. Giusto? No, infatti è una sorta di collettivo anche questo, nel senso che si tratta di un nucleo centrale di tre persone e di tutta una serie di altri musicisti, attori, attrici, performer che ruotano attorno a questo progetto musicale, per cui in realtà sì, è una cosa affollata, diciamo. Quindi è molto di più in realtà che un semplice, diciamo, progetto dal vivo, perché sembra quasi una band effettivamente, no? Però mi pare di capire che è di più di una band. Ecco, sì, è molto di più, nel senso che in realtà per noi è una sorta di blob, di cosa che cambia forma a seconda delle situazioni, nel senso che lavoriamo per esempio su facendo delle colonne sonore per dei film muti dei primi del Novecento, oppure sonorizziamo delle letture teatrali, oppure facciamo dei concerti veri e propri live come band, diciamo che abbiamo tante forme, ecco. Infatti io leggo anche che fate anche le improvvisazioni. Sì, quello è il nucleo principale del nostro modo di muoverci, nel senso che siamo appunto musicisti che prediligono quella modalità lì quando si trovano ad avere a che fare sia con la composizione, perché componiamo improvvisando, sia quando suoniamo improvvisiamo tantissimo, insomma. Sempre? Non avete una scaletta o no? Vi fate un'idea e poi... Dipende dalle situazioni. A volte abbiamo diciamo dei punti di riferimento, nel senso che abbiamo delle improvvisazioni che sono strutturate, sappiamo come iniziano, sappiamo che deve succedere qualcosa nel mezzo, che insomma ci siamo concordati che devono finire in un certo modo. E però quello che succede poi in mezzo, il percorso per arrivare a questi tre punti è diverso ogni volta, e poi ci sono effettivamente delle improvvisazioni libere che partono senza nessun tipo di punto di riferimento, si sviluppano e finiscono naturalmente. Diciamo che va in base alla serata, in base agli umori, in base... Definizione giusta, sì. Blob, è bellissima, proprio rende l'idea, bello. No? L'idea. Vabbè, e qua intanto abbiamo avuto un piccolo problema, che c'era una boccetta di profumo che si è esplosa, non so cosa sia successo. Va bene, invece ascolta, il mixato, no scusami, mixato forse un po' riduttivo, il live set che ci hai inviato, di cosa tratta? Dici un po' di più, dacci qualche informazione in più. Ecco, parlavamo di improvvisazione, il live set che vi ho mandato è composto di due parti. La prima parte è un'improvvisazione libera, sì, che abbiamo ripreso e registrato dal vivo, per cui è così come è nata, ed è nata senza nessun tipo di, appunto, di composizione precedente, mentre invece la seconda parte è un altro aspetto di questo progetto, che è una sonorizzazione di una lettura, e questa invece è composta e arrangiata e registrata in studio, per cui è un altro tipo di lavoro, per dare un po' la... un'idea, diciamo, di alcune delle facce della medaglia. Interessante, molto interessante. Avrei una curiosità, scusami Andrea. Sì. Ciao. scusa. Quindi, quando voi fate il live, spaziate nei vari generi di musica? O tendete a tenerne uno per una sera, poi... No, in realtà noi cambiamo e fondiamo un sacco di linguaggi. Diciamo che... possiamo passare da dei linguaggi che vengono dalla musica elettronica, per cui dance, drum and bass, techno, ovviamente tutti suonati dal vivo, perché c'è il nostro batterista che è meglio di una macchina da questo punto di vista, e possiamo mescolare queste cose qui, possiamo fare dei pezzi che hanno delle sfumature reggae o funky, cioè, veramente dipende tutto dal momento, è tutto legato proprio all'improvvisazione, appunto, e al momento e a noi in quel momento. Beh, direi che siamo proprio curiosi di ascoltare adesso. Infatti, con questa presentazione non vediamo l'ora di ascoltare. Sì, sì. Ci lasci solo i tuoi contatti? Sì, per trovarti su Facebook o dove sì, vuoi, esatto, tu. Trovate la pagina Facebook Le True Electronic. Sì. E basta, diciamo, abbiamo una pagina Bandcamp che è letrueelectronic.bandcamp.com. Una data dove potremo trovarvi in caso di una serata? Al momento stiamo lavorando in studio a livello di registrazione, per cui per il momento siamo un po' fermi con le date, però è probabile che quest'inverno, all'inizio del prossimo anno, faremo qualcosa. Se seguite la pagina troverete tutte le informazioni. Ah beh, sì, va bene. Okay. Va bene, direi che noi ci salutiamo, ti ringrazio di averci dedicato del tempo e andiamo ad ascoltarci quindi il tuo live set. Ciao. We'll be right back. ascoltando la musica. Del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Abbiamo fatto il giro di boa di questo programma, di questa puntata, di questa quarta puntata. Tra l'altro è partita dalla diretta Facebook, ve lo volevo dire, e nessuno mi ha detto niente. Me ne sono oculatamente dimenticato. No, ma poi la cosa è stata bella perché lui ha proprio fatto tutto naturalmente. Si vedeva tutto. Cioè andava anche al ritmo della musica. No, ma è bello che più anche hai riluppato quello che hai fatto. Da tutto dal vivo, ragazzi. Tutto pensa dal vivo, un po', pensa un po'. Bene, abbiamo ascoltato prima il live set di Electro Electronic, una cosa molto molto particolare. Vero, un live guardando... iniziale quasi diceva come diceva non casuale, come si dice, improvvisato. E poi dopo una seconda parte, una cosa un po' particolare, che era una musica, avevano musicato una storia, ecco, mettiamola così. Poi abbiamo ascoltato adesso invece il brano della Dubphonic, The Dub Vengeance Creator Dub, che era dub, era dub. Sì, era dub, assolutamente dub. Non possiamo perché, dire nulla. Perché le mie grattatine erano dub. Erano dub, erano no, quelle erano dub nel senso che erano dubbiose. Erano dubbiose, è vero. Allora, presentiamo un'altra etichetta nuova, un'etichetta sana, perché, perché Tony ha trovato etichette strane, mettiamola così. Questa è la Shudder Mother e in realtà non ho informazioni del tipo di dov'è, che cosa fa, perché, quando. Come si chiama? Che poi... Shudder Mother, ma ti devo far vedere come si scrive, è un po' particolare, non so se si pronunci così. Non sai neanche il paese, nulla. Nada. E tra l'altro... Oddio, da così come la stai descrivendo, mi sembra di più, mi puzza un po' di tedesca. Può essere. Perché è Shudder Mother. L'artista che andiamo ad ascoltare è Vezvok con il brano Studio 66. Mm? È un genere. Ha sbagliato indirizzo. Studio 64. Che poi sarà, sì. Diciamo che è un po' più avanti. Diciamo che prima sì, c'è il 66, poi c'è il 66. È praticamente due studi dopo. E il sound richiama un po' gli anni 90, dai. Andiamo ad ascoltarlo e poi dopo avremo qualche novità nella seconda parte del programma. Allora Tony, ti sei sentito un po' alla Love Parade? Sì, no, ecco. Infatti mi sono confuso con la Street Parade che è di Zurigo. Dai, i suoni sono anni 90. Io ci sono stato alla Street Parade di Zurigo, anni fa. Perché non ti hanno lasciato lì? Non mi volevano neanche lì. Non ti hanno tirato sotto con i carri? No, appena mi hanno visto sono scappati. Sono andati via. Sì, tra l'altro avevamo visto prima un personaggio della Street Parade che sembrava tipo una gallina. Boh, non so, vabbè. Personaggi strani. E quello è già forse il più sano. E Lassano. Vabbè, vabbè. Sì, una volta. Direi bene, che, bene. Come dire, voltiamo pagina fisicamente, perché vedi? Senti, vedi? Ho voltato pagina. Che effetti speciali, ragazzi. Effetti speciali. Qua, non so cosa sta succedendo, però in realtà io avevo bisogno di Tony. Infatti anche io ho bisogno del mio telefono. Che praticamente dobbiamo presentare il prossimo brano. Che è un brano, diciamo, arriva, scelto arriva, dalla... Arriva la news della redazione. Dalla redazione. La velina, è arrivata la velina. Però volevo lo stacchetto, eh. Lascia stare. La velina senza stacchetto. Mi raccomando, la redazione qua dietro, che pubblichi una foto della velina. Voglio vedere la foto della velina. No. Senza filtri, ragazzi. Ma che spacca il telefono. Ma perché? Perché dobbiamo fare queste cose come Wall Trips? Per piacere. Ma sì, ma perché noi siamo un programma semiserio, ecco, potrei, ecco, una nuova definizione. Semiserio. Va bene. Introduciamo la tua nuova rubrica, visto che adesso non si chiamerà più mezza tonica, ma si chiamerà un quarto di tonica. No, come si chiamerà? No. Sì, perché l'altro quarto se l'è dimenticato. Se l'è bevuto, cioè, l'altro. Io ho fatto anche lo slogan preciso. Vai. Day is night, sunset light. Oh. Cioè, è giorno, è notte. E la via di mezzo, cioè. Quindi arriverà una voce per fare un nuovo jingle, sappilo, te lo commissiono già. Va bene, okay. Non c'è problema. Pensavo che si finiva, cioè era più verso come ultimo pezzo del programma, però va bene anche così. No, cioè, vediamo. Così, dai, quello che capita. Si evolve man mano. Va bene. Quindi da dove hai pescato questo brano? Beh, io stasera proprio sono riuscito a tirar fuori una roba, non so, vabbè. L'etichetta viene da Barcellona, so che è una etichetta elettronica. Il nome, maledizione, è un po' complicato. E la Soislo Cerdos. Cerdos. Attiva dal 2010. What's in America? Attiva dal 2010 in Barcellona. Comunque, penso che è una città che sicuramente, come Berlino, ha tanto come musica, come... Un programma che potremmo fare anche da... Da Barcellona, come siamo fatti noi. Sì, è vero. È molto più che da Berlino. Forse da Berlino forse ci tirerebbero le uova, perché alla fine siamo semiseri, lì dovessimo essere no, più invece, seri. Invece magari in Spagna ci accetterebbero di più. Dai. Sì, è vero. Olè! Però l'autore di questo EP, che sono 4-5 tracce, sì. Io sono stato, diciamo, catturato dalla cover, che è una ragazza, penso che sia su un tramonto. Sì. Però il collettivo è russo, quanto ho capito dai titoli. Sì. Però è meglio che non si va oltre. No, vabbè, ormai diciamo almeno come si chiamano, almeno quello, dai. Ah, perché tu lo sai. Per forza. H100, penso che sia il nome della. Sì, va bene. H100, va bene. Sembra il nome di un virus, H100. Invece il brano come intitolato? No, è molto più semplice. Summer Love Dance Dream. Ah, mi sembra proprio una cosa... Sì, tranquilla. Non so, effettivamente mi dà un po' l'idea. Cos'è che hai detto? Com'è che si chiamava la rubrica? Ah, Sunset Light. Vedi, quindi ci potrebbe stare. Sì. Vabbè, dai, andiamo a ascoltarci questo Summer Love Dance Dream. Andiamo a vedere com'è. We'll be right back. cioè il synth molto ipnotico sto synth. È bravo, bravo, sto dicendo proprio quello. Il synth che mi sembra di essere tipo in, sai quelle canzoni tipo Profondo Rosso. Poi il drum sotto molto, molto Summer Love, ecco. Sì, ma cioè, boh, non so. Sì, ma a proposito di Profondo Rosso, cioè, con guardate la nostra pagina di Instagram. Cioè, andate su Instagram. Con la cosa lì di Instagram di prima. Una storia terribile. Cioè, sia... Halloween, allora, fan baffo. Facciamo un po' di ordine. Allora, prima c'è stato il velino il che ha portato a Porto, diciamo. A Porto? Da Genova a Milano. Ha portato il cellulare a Tony per, diciamo, introdurre il suo brano. E la nostra redazione ha pubblicato, ha immortalato questo attimo in una foto, diciamo, irresistibile, indimenticabile. Ma stiamo diventando un collettivo a questo punto. Sì, come... direi di sì. Audiovisivo. Indimenticabile, mi sa che, cioè, si dimenticheranno. Si sta evolvendo in qualche cosa che non si sa dove finirà. Diciamo proprio indimenticabile, perché non te lo puoi dimenticare. Cioè proprio... Nel senso che... Vabbè. Abbiamo veramente, diciamo, bruciato i tempi con Halloween. Intanto lì vedo che c'è qualcuno che si è estraniato da tutto ciò. È la redazione esterna. La redazione esterna ormai non ci segue più. Si è esternata anche lei. Sta dormendo all'impiedi, mi sa. Hai fame? Tra fame, sonno qua. Ti capisco. Io direi che ci andiamo ad ascoltare un po' di musica con un brano della mia... Ormai penso che me ne porterò... Cioè la porterò sempre avanti, la I Quiet Bump Records. Sì, va bene. E dov'è che era? Irpinia di Avellino. Avellino. Salutiamo che sì. Il brano si chiama Tutto Come Prima, quindi un brano in italiano, sempre con un po' di accento ogni tanto. Rientra un po' di napoletano, però solo un po'. Ma no, neanche troppo, diciamo. Perché poi si butta verso anche la Puglia da quelle parti. Sì, cioè, sì, non è troppo estremo, non è come dite voi. E il gruppo si chiama Giambassa, che è il gruppo del fondatore poi dell'etichetta, che era Carmine Minichello, cioè, che avevamo intervistato. E andiamo ad ascoltarlo. Il brano è del 2011 e il progetto è del 2000 addirittura, quindi siamo quasi sulla soglia dei 20 anni di questo progetto. È ancora di internet, diciamo. Sì, sì, direi, infatti è molto interessante questa cosa qua, che è da tanto tempo che ci sono in giro. Va bene. Direi che andiamo ad ascoltarci questo brano di Giambassa con Tutto Come Prima e poi vediamo un po' che succederà negli studi di Wolf Trips. Su una tanutata stonata la sassà, se vede che succede sembra così, avveria attorno a me, qui recamo è come il lamento delle iene, tu non fai manca tempo alla sasta, quando hai urnata a pensare a casa, passa qui la via e se fornisce un'altra parte, la luce attorno a me è sempre più forte, a volte strano ma è possibile incontrare, negli occhi spenti protesi a fissare, sotto il riflesso delle costellazioni, il vuoto intorno e le altre tensioni. E russai che stiamo sempre fermi in tasto posto. Se cangia moon, appena tutto spusta. Sotto l'effetto di gradi di morfina. E nel mio corpo mo tutto come prima. E se lo sanno quando mess, quando lo tiempo è sempre sullo stress. La vita torna cancenato bluff. Una da traccia candana. Lasciarsi andare, a respirare a scatti, far meticare, sospesi in giù, tra il dire e il fare, intravedere da lontano, nulla da eccepire, qualunque cosa si potrebbe deviare, qualunque cosa è da andare a morire, laggiù, è sempre la deriva, sempre più lontano,

siamo entrati nella parte più club. Molto elettronico, devo dire, molto bello. Ma tu parli con un registratore di cassa? Perché? No, lui parla. Siamo no, se parla così è un'altra persona, però, eh. Allora. Ma io. Il mugugnatore. Comunque, questa è un'etichetta. Si chiama Mist Record. Che non è traducibile perché è uno spelling, diciamo. M.I. Hai trovato qualche cosa? Allora, loro vengono da. È un'etichetta di Santiago, Cile. E il brano è del 2018. Tutta roba nuova. Meno male che è un'etichetta tedesca quel pezzo di Somaro Arabo che c'è di fianco. Perché ho detto forse potrebbe essere dal nome un'etichetta tedesca. Non ho detto non lo è. Ma quella questa. Prima. Buonanotte. Yes. Brava. Ah, vero, questa è l'etichetta. Siamo andati su etichette dopo. settimana scorsa ne avevi già messo qualcosa. Della Mist Record, sì. Però questa puntata sto andando un po' a selezionare brani diversi, da provenienze anche diverse, ecco, mettiamola così. Infatti il prossimo brano è che ci spostiamo in Russia, tanto per cambiare, visto che noi facciamo sempre questo giro qua. Dovrei organizzare la playlist in modo da fare proprio un giro geografico. Nel mondo, non sarebbe male, devo provare a farla una puntata, diciamo che so, lato europeo. Tipo risico, bravo, questo ce l'ho, questo non ce l'ho, una cosa del genere. Vabbè, stavo dicendo, ci spostiamo con un'etichetta russa e allora, il nome è... Allora, come dire, il nome è MNMN, ma come si pronuncia? MNMN. Che potrebbe essere tipo anche mano a mano, però in versione un po' più... mano a mano. Un po' più... quindi russa. Perché russa perché non dorme la notte? Lo sapevo che cadevamo in questo tranello, ma vabbè. Allora, qua è un po' tutto una cosa complicata. Allora, l'autore è Foxstone che non so perché si dica per. Ovviamente si utilizzava versus, adesso si usa sta X. Anton Borisov, che ovviamente, cioè proprio... Cioè, non è che dice di Bari Anton Borisov, cioè, si vede proprio che è un nome russo. Sono Anton de Bari. Antonio. Non è proprio un nome russo, ecco. Beh, Anton Borisov, dai, ci sta come nome russo, tutto sommato. Il cognome, sì. Sì. E il brano si chiama Shamanium. Shamanium. Il pugliese mi entra di diritto. Shamanium. È arrivato. Il brano, non mi ricordo se forse era un brano estratto. No, ecco, era stato estratto da una compilation che è la Compilation Net Label Day 2018. Che è una raccolta di... Ah sì, ho letto l'articolo. È una raccolta praticamente che si fa ogni anno dei brani che si reputano più rappresentativi delle net label in generale. Il genere spazia un po' sempre sull'elettronica, ma direi che ce l'andiamo. Ma poi qualche volta parleremo se c'è qualche artista che è partito dalla net label e diventato famoso. Beh, uno, e tra l'altro c'è anche messo un like, dovrei fare come fa qualcun altro, è Proletar e adesso sta iniziando a girare sul radio un po' più grandi. Okay. Andiamo ad ascoltarci questo brano di Foxstone, Shamanium. entriamo. Un bel mischione di generi, perché passa dalla elettronica, drum and bass, breakbeat, rock. Sono quelli della settimana scorsa che anche la stessa etichetta. Sì. Però a me piace molto. Una delle caratteristiche che mi piace molto di queste etichette è queste sperimentazioni particolari. Non ti stancano. No, perché ascolti sempre roba nuova. Peccato che l'abbiamo anche dovuto tagliare un attimino per rientrare. Sì, perché vuoi accelerare un po' e farvi ascoltare ancora un po' di musica, tutto qua, solo per quel motivo lì, dai. Intanto abbiamo un po' di gente che ormai si è seduta in panchina. Abbiamo i panchinari del dormitorio. Un dormitorio, sì. C'è chi ha fame, chi è stanco, chi ha sonno, chi ha l'allergia. È una sala d'attesa di una stazione. Chi ha tutto cosa vince? Chi ha tutto, non lo so, dovremmo ancora fare un premio per chi ha tutto. Possiamo, come settimana scorsa abbiamo fatto il sondaggio. Qui c'è la casa di riposo. Oggi possiamo mettere in palio qualche cosa, non so. Una palio? Ma non ti sei visto. Un schifo di macchina. No, cosa vuoi mettere in palio? Non lo so, boh. Non lo so. Un palio. Non diciamo cose diciamo che un poi palio, dopo. Adesso ci aspettano tutti. Un premio. Come dire, soldi non ce n'è. Un anno di vacanza. Per me, ok. Va bene. Un anno di vacanze vale per tutti. Non sarebbe male. No, per me, poi voi. Allora, torniamo su un'etichetta a noi molto cara, etichetta che ormai l'abbiamo ribattezzata Beautiful, perché l'etichetta è Brook. Poveraggio che se ci sentono così di etichetta. Loro sono tedeschi, quindi potrebbero anche. Ma credo che solo in Italia potrebbero fare. Tu prendere in giro, ya! No, beh, allora noi prendiamo in giro il nome, poi in realtà la musica mi piace molto, devo dire la verità. Il loro catalogo è molto beautiful. È molto beautiful, bravissimo. Si aggiornano spesso anche il loro catalogo. E una volta che faccio il brillante, ogni tanto. Il brano è un brano di un produttore svizzero, quindi in realtà ci spostiamo dalla Germania alla Svizzera, arriveremo in Italia prima o poi. Sì, bello. Svizzero Novi, sì. E il brano è un brano di Deep House del 2015. Lui è George Neufeld e il brano si chiama Another Dimension, quindi ci porta essenzialmente in un'altra dimensione. A questo punto immagino una dimensione di pausa, ecco, mettiamola così, qualcosa di un po' più morbido. Pensavo per un po' più techno, visto la provincia. No, questo brano in particolare è di pausa. Loro effettivamente hanno prodotto molta techno, infatti mi sa che ho qualcosa poi per dopo di un po' sempre della Brook Records, un po' più spinto. Dimension. Dimension. Dai, l'ultimo quarto d'ora dobbiamo fare un po' di ma musica da clubs. Ma questo è molto più Sunset del mio pezzo di prima. Dimension. Complimenti, no, vabbè. Bello, bello, molto bello. Beh, Dobbiamo fare i complimenti a Brooke. Brooke. No, non passiamo più da... cioè, chiudiamo. No, in realtà abbiamo ancora un brano della Brooke Records che è lungo mi come... no, mi ricordo che effettivamente viene da Dresda, che è Dresden, Germania. Esatto. Ecco, quindi eravamo sicuri che era della Germania. Avevo questo dubbio, ma in realtà era così. E il prossimo brano è di un autore che abbiamo già passato settimana scorsa, che ogni volta che lo metto poi mi viene fame, non so per quale motivo. E qui si chiama Gabriel Vittel, e quindi mi viene un po', non so, c'è questa assonanza particolare. Però vabbè, dai, era una stupidata così. No, vabbè, un po' dai, alla Fabio. Un po' alla Fabio. Stavolta non ho detto niente. È vero, è vero, è vero. E è ci vero, manca anche l'altro Fabio che salutiamo. Stasera è stato vittima dello sciopero. Maledetti. Ma immaginavo, maledetti immaginavo. Ferrovieri. Hanno scioperato tutti. Attenzione, hanno scioperato tutti. Allora, lui in realtà, Gabriel Vittel, questo Gabriel... brano è del 2017, è un ragazzo molto giovane, mi sembra che forse ha 19 anni, qualcosa del genere. Ed è anche un produttore produce un suo podcast personale, quindi siamo un po', come si dice, no? Collaboratori. Rivali neanche. No, rivali no, diciamo che facciamo un colleghi, po'. Colleghi, colleghi. Colleghi, ottimo, ottimo. Vedi che arrivano i suggerimenti dalla cassa. il brano si chiama... Produttore indipendente, diciamo. Sì, è un produttore indipendente anche di podcast, oltre che di musica. E questo brano che dicevo è stato prodotto nel 2017, si chiama New World. Adesso non so perché ha voluto rimarcare. Un nuovo mondo. È una speranza, credo. Sì, chissà. Beh, 19 anni, certo che deve avere una speranza. Si spera. Comunque il genere dovrebbe essere tendente più alla techno, però valutiamo nell'ascolto, poi vedremo un po' che sarà. Vabbè. Che ne sarà? Started off between the lines, space to roam. Peel it off. Intanto in questo new world direi che Tony ormai è diventato socialized, giusto? Sì, devo un po' ancora... Non sono molto esperto di Facebook e queste cose qua. Cioè, ma infatti abbiamo dovuto chiamare... da 10 anni, ma non è che... Cioè, la mia suocera è una macchina da guerra. Davvero? Lei... Sì, sì, sì, lei gestisce una pagina Facebook. Ma quanti ne ha di followers, diciamo, rispetto... Non mi ricordo. Ma migliaia? Allora, mi sembra. 10.000, forse. Cioè, lei programma anche gli orari. Cioè, tipo, vado a dormire e so già che... A mezzogiorno. Esce. Ma scusami, cos'è che fa? Cioè, fa le influenze lì? No, no, è tutto su Facebook. Io se va su se fa la roba su Instagram, mi sa che diventa milionaria. No, è una pagina di frasi d'amore, sai. Lei anche usa anche dei programmi editor per le foto. Fa i meme. Fa le meme, queste cose qua. Ammazza avanti proprio. 73. Cosa c'è? Sto rimanendo pietrificato. Un seguace. No, no, no, no, assolutamente no, assolutamente no. E allora diciamo che... Comunque devo darvi una buona notizia per qualcuno e triste per qualcun altro, perché ormai sono le 21.54. Direi che abbiamo tempo probabilmente per l'ultimo brano. Buona per qualcuno, perché poi dopo si va a mangiare. Solitamente noi diciamo che mangiamo verso le 10:30. Io e la Debra siamo pieni di metà perché abbiamo stuzzicato, ma forse abbiamo fame, bisogna vedere. come ogni venerdì poi, Tony. io ho mangiucchiato qualcosa, diciamo. Yeah. E io mi sono scovanato il vitello tonnato, no, non è vero. Mazza, oh. Sono quelle delle patatine. No. Ce l'abbiamo già nel nome, Fame da Lupi. Fame da Lupi, sì. Infatti il prossimo titolo del programma sarà quello, invece che Wolf Trips sarà Wolf... Angry Wolf. Alla Angry ricerca Wolf. Del pub perduto, Wolf, qualcosa. Wolf Ribs. Perché Ribs? Perché te mangi? Sì. Mangi le cose. Ah, brava, è vero, lei le costine. Lei sa inglese, lei sa bellissimo, inglese. Bellissimo. Potremmo farci un meme, chiedi a tua suocera di farci un meme. Oh, signore. È sua mamma. È sua mamma. No, infatti io dicevo a tua suocera. Ho detto mia suocera. Infatti io dicevo a tua suocera. Vabbè. Chiusa no. Casa Longo. Madonna mia. Direi che andiamo a ascoltarci l'ultimo brano della giornata, che in realtà... Eccolo qua, no, non lo trovavo sulla mia agendina. Chiudiamo con un brano dubstep. So che forse Tony non gradisce, però proviamo ad ascoltarlo. Guarda, dopo aver ascoltato la trap, la dubstep per me... È oro. Guarda, chiudo velocemente perché ho sentito un programma che ascolto molto spesso. Comunque io ascolto anche altri programmi oltre il nostro, diciamo, sì. Oltre il nostro podcast. E c'era un'intervista a Boss Dom e Achille Lauro che parlavano. Il genere di musica che dicevano era il samba trap. Sì, sì, è una, che sì. Dico, sì, va bene, ok. Mi piace l'idea di darti dei, diciamo, delle aree, no, samba trap, ma... Cioè, alla fine, no, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Voglio dire. Vabbè, andiamo a ascoltarci allora un po' di dubstep dalla Germania. Strano. Sì. Molto strano. Fino adesso non abbiamo ascoltato neanche un solo brano proveniente dalla Germania. Bravissimo, l'etichetta è la Sub Bass, quindi ci sta, dubstep, Sub Bass. Che ci mettono anche un sacco di piace, se non sbaglio. Sì, no, è un'etichetta che ci piace molto e condivide anche quello che proponiamo anche Salutiamo noi. Come in tedesco, come si dice in tedesco? Ciao. Dai. Tschüss. No, Giusto la birra, no? No. In tedesco, ha ciao, studiato, si dice hello. Ha studiato, eh? No, giusto il saluto ciao, finale. Adios. Adios internazionale. Ciao, in tedesco si dice hello, come in inglese, solo che è scritto diverso. Ho capito. Va bene, comunque il brano... Hello è hello. Il brano è di Skuvlov e si chiama Superfly. Andiamo ad ascoltarlo e poi dopo dobbiamo fare i saluti. Va bene. Mm-hmm. Wall Street, I viaggi del lupo. E siamo arrivati alla fine, Tony. Lo so che stavi già sclerando, dicendo cose senza senso prima della sigla, però siamo arrivati alla fine. Ah, perché si sentiva, sì, no? Sì, si sentiva. Si sono sentite tutte, dalla prima all'ultima. Bene, bene, immagino che dovrai chiudere, tagliare, va bene. No, vabbè, chiedo vabbè, scusa. Chiedi scudo. Cioè, questa è peggio. Ma no, è una questa classica... è peggio ancora, andiamo sempre. È una classica battuta questa, okay. Dai, è... Questa sarà una schiacciata. Chiediamola qua Fabio. Comunque volevo dire che allora abbiamo iniziato con, diciamo, un pezzo jazz, abbiamo concluso con un pezzo dubstep, siamo passati da un estremo all'altro, ma mi dicevi che gli estremi questa sera non mi sono piaciuti. Non ti sono piaciuti? A me, devo dirti la verità, il pezzo dubstep mi piaceva, però faceva notare Fabio che era effettivamente un po' didattico, mettiamola così, molto molto, molto fruity loops, molto, sì, molto semplice, molto semplice, cioè, come perché brano, perché sa fare la musica ci sono due tasti, neanche, no, sembrava fatto proprio a campioni, neanche troppo elaborati, come, esatto, ha un ascolto un ha po' messo lì un po' di roba, ha messo lì un po' di roba, sì, sembrava dubstep, però poteva, vabbè, fare, vabbè, poteva fare di meglio, okay, sì. Sai che dovremmo iniziare a bacchettare qualche produttore di, anche su bass, su bass, dico su bass, no, no. No, ma su bass in realtà ha fatto altre produzioni molto interessanti. Vabbè, questa qua. Vabbè, tanto in fondo è una net label, dunque non è che hanno pagato. Beh, però sai, danno comunque un'impronta, no? Nel senso, ogni brano poi crea l'identità dell'etichetta. Quindi, esatto, se inizi a produrre roba scadente, ah, certo, l'etichetta scade. Se poi ne produci una che non è proprio il massimo, beh, beh, ci può anche bisogna stare. Vedere la data della scadenza. Sì, ecco, sapevo io. Va bene, io direi, no, che diciamo, abbiamo che è proprio, come si chiama, è la propria carta d'identità. Sì, sì, sì, sì. Direi che abbiamo anche ovviamente sforato il tetto delle 10 e niente, è l'ora di fare i saluti. Salutiamo tutti quelli che hanno interagito e che interagiranno in settimana ascoltando il podcast, i vari extra anche che pubblicheremo, tra cui sicuramente i live set che abbiamo ascoltato questa sera dei ragazzi della DNA Collective. Poi i nostri pezzi forti saranno le storie su Instagram, che le storie su Instagram rimarranno epiche, penso che verranno salvate, so che si possono salvare proprio le stories, sì, e penso che qualcuna forse rimarrà anche salvata a vita. Per un po', finché non ne fai una diversa, sì, so, ovvio. Mettiamola così. E poi chi è che possiamo salutare? Salutiamo la Sabri, anche se non ci ha ascoltato stasera. Allora, salutiamo la Sabri, che sicuramente ci ascolterà nella replica, sì, sì, okay, sì, sì, nel podcast, che sì, anche lei è stata vittima purtroppo dello sciopero milanese e è rientrata a casa adesso. Vabbè, salutiamo allora anche Fabio, che non è riuscito, esatto, a Fabio. Salutiamo anche lui e tutti quelli che insomma hanno subito un po' sta cosa. Dovremmo fare tipo il momento tipo, sai, Alcolisti Anonimi. Oh, sì, salutiamo Fabio. Ciao Fabio. Salutiamo. Sembra sempre così. No? Vabbè, no, io direi invece che chiudiamo. Io vi saluto. Saluto tutti voi che siete qua nello studio. Bene. Fabio, Tony, Deborah, Cri, Sara e Katia. O Sarcatia anche detta. E niente, ci sentiamo settimana prossima, 2 novembre. E salutiamo anche Domenico Biancardi. Sì, tra l'altro volevo anticipare, già che ci sono, visto che c'ho carta canta, scritta Manem. E settimana prossima avremo un'altra intervista con un altro ragazzo, un produttore musicale. E probabilmente dovremmo avere anche un pezzo di DJ set di un ragazzo che verrà probabilmente anche qua in studio. Va bene. Però il DJ set non è live, però ascolteremo un DJ set drum and bass. Ok. Bene, vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima. Oppure ascoltando il podcast. Oppure sul podcast. Esatto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.